parte della performance, chiaramente, raga. L'abbiamo pagata. L'abbiamo pagata apposta. Arriveranno altre cose da questa parte. Ah, stanno arrivando, quindi. Quindi queste non sono mai arrivate di là. Si stanno andando. Va, quindi devi passare. Io passo. Mescolatele. Potete mettere insieme. A fare i vostri. Ok. Per comodità. Non avevo capito. Devo andare da qua. Questo è l'esercizio e l'arancia. Mischiate tutto insieme qua. Vai, allora. Ecco, basta, vai, così no. Tu sei, no, tu sei già, tu sei, lo no, sai. No, okay. Questa no. Il tango in un ambiente tossico. Perché io? Perché noi? Perché tu? Come si sta sotto una coperta grigia? E che cos'è il tempo per una galla? Perché io? Ci siamo mai attraversati? Qualcuno bucherà il buco del picchio? Perché io? Perché noi? Libero di muoversi. Al fango piacciono i piedi. Perché io? Perché noi? Perché qui? Com'è percepita la carezza da una foglia di quercia pelosa? Quercia pubens a chi? Chironomide a me. Come mi hai chiamato? Garullus Ghiandarius. Ma passiamo scorti tu sa chi? Epicus